Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Dopo aver volato a bassa media quota nei giorni scorsi, parlando soprattutto di droni, questa sera saliamo di qualche decina di chilometri, forse anche di qualche centinaio di chilometri, ed entriamo in orbita. Anche lei sempre più affollata, questa volta di satelliti artificiali che monitorano la Terra, in qualche caso la spiano, di sicuro insomma la tengono d'occhio. Ed è notizia di pochi giorni fa che il CNR, cioè il Consiglio Nazionale delle Ricerche, si è classificato primo tra le istituzioni scientifiche europee per quanto riguarda le competenze appunto nel settore del telerilevamento. Il CNR è settimo nel mondo dopo 6 istituzioni scientifiche americane e una cinese. È un risultato di rilievo in un settore tecnologico di punta che è anche in grande crescita e che ha delle grandi potenzialità. Allora cerchiamo di capirle un po' meglio con l'aiuto di Enrico Brugnoli, che è direttore del DTACNR, cioè il Dipartimento di Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'ambiente. Buonasera Brugnoli. Buonasera. Senta, allora intanto le chiedo qual è il segreto, diciamo, della ricetta di successo del CNR. Il segreto sta nel fatto che il CNR non si occupa di un singolo settore, ma copre un po' tutta la filiera, diciamo, del telerilevamento e del remote sensing, in quanto in collaborazione con ASI e con ESA. L'Agenzia Spaziale Europea e Italiana. Esatto, acquisisce dati satellitari, dati da remote sensing, ma segue tutta la filiera della conoscenza, quindi elabora i dati, li processa, verifica esattamente che cosa sta succedendo in quei parametri a terra, perché noi abbiamo una rete di rilevamento non soltanto da satellite o da aereo, ma anche da terra. Abbiamo per esempio che vi serve a correggere, diciamo così, no, le misurazioni satellitari. Quando andiamo a rilevare un certo dato, vogliamo indagare per esempio su una temperatura oppure su un altro aspetto, possiamo farlo da satellite, ma possiamo misurare lo stesso parametro da terra per avere una calibrazione e correzione eventuale. E non solo questo, ma poi andiamo a vedere quali sono tutti i settori applicativi, perché abbiamo ricercatori esperti che si occupano per esempio di andare a verificare i rischi naturali, la sicurezza, l'agricoltura, per dire l'archeologia. Indagini del CNR alcuni anni fa hanno portato importanti scoperte archeologiche a Nazca in Perù, per esempio. Sì. Vorrei proprio che ci aiutasse a inquadrare un po' meglio il tipo di studi, di rilevamenti che si riescono a fare oggi dall'alto, in particolare da satellite. Siccome molte delle applicazioni del telerilevamento si basano sulla possibilità di guardare la Terra non solo nella luce visibile, ma anche in altre finestre dello spettro elettromagnetico che i nostri occhi non sono in grado di percepire, come per esempio raggi infrarossi, onde radio, eccetera, io le propongo di usare un po' questo come filo conduttore, però partirei proprio dal visibile, insomma, dalla finestra del visibile, e le chiedo che cosa si vede che non possiamo vedere con i nostri occhi da satellite. Beh, questo è quello anche più comprensibile, la parte del visibile, perché produce immagini molto belle che tutti conosciamo, abbiamo visto su computer o altro, cioè vediamo immagini che ci mostrano la vegetazione, il colore della vegetazione, la copertura per esempio di ghiacci dei poli, come la copertura dei ghiacci si può allargare o prevalentemente restringere. Fenomeni di questo genere. Ecco, il colore della vegetazione per esempio perché viene analizzato? Che informazione dà? Beh, ovviamente parliamo di colore in senso, diciamo, grossolano, ma in realtà quello che si vanno a studiare, diciamo, delle lunghezze d'onda particolari nel visibile e nell'infrarosso vicino, per fare dei rapporti che portano a capire qual è lo stato della vegetazione, quindi la concentrazione ad esempio di clorofille o l'emissione per esempio da parte delle clorofille stesse di particolari radiazioni. Sono tutte nel visibile o quasi tutte nel visibile, e quindi consentono di apprezzare se c'è una vegetazione che per esempio è in mancanza di acqua e quindi è sotto stress, oppure se è in ottimo stato di vegetazione. Così come in questo settore si può fare molto anche nella prevenzione degli incendi o di altri aspetti. Certo. E nell'archeologia ad esempio, perché verificando lo stato della vegetazione, soprattutto quando si arriva a uno stato incipiente di stress, si può vedere che zone in cui ci sono dei manufatti sottostanti vanno in stress prima di altre. Si individuano dei muri preesistenti, delle strade o altre cose di questo genere. Allora Brugnoli, adesso ci fermiamo, però riprendiamo domani a parlare di tutte le altre applicazioni possibili del telerilevamento. Per intanto grazie. Grazie a lei, buongiorno. Appuntamento a domani.